sfide a non finire, ma tutto un gioco che curare poco tu non farai. Tu sei, innervosisci gli altri mentre calmo tu stai ad assaporare una magnifica carota che soddisferà la tua voglia golosa. Coniglio dalle lunghe orecchie, gli servono come due antenne, una furbizia micidiale fa impazzire uno normale. Durare poco tu